Da McDonald's tornano in edizione limitata i leggendari CBO 1955 e McRoyal Deluxe. Che ritorna nel sarà mitico ogni mozzo che... Ti sblocco un ricordo, ti sblocco un panino. Anzi, tre CBO 1955 e McRoyal Deluxe. Provali tutti. Runtime Radio. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, consultarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Il grande reset. Il grande reset. Ah, belli di casa, buongiorno, benvenuti. Venerdì mattina qua su runtimeradio.it. L'altra settimana non ci sono stato perché ero altrove, ma poi magari dopo ve ne parlo. Però prima di iniziare ovviamente con quella che è la puntata, insomma, che sta per iniziare, che è una puntata un po' easy, di quelle puntate che ogni tanto io tiro fuori giusto per stare un po' con l'acceleratore schiacciato a metà, forse anche a un quarto, diciamo così, andare a fare una passeggiata vocale qui su runtimeradio.it e runtimeradio.com, dove ci state ovviamente ascoltando. E è una puntata semplice, tranquilla, perché in realtà per la prossima settimana ci sarà una bella puntata, una puntata che sta raccogliendo alcuni contributi. Sto chiedendo il sostegno, il supporto, diciamo, dal punto di vista anche dei contributi ad altre persone, come già Samuel, già ho preparato il suo contributo. E a proposito di Samuel, lunedì ascoltatevi Radio Anziano alle 7 di mattina, tanto ve lo linka sul nostro, sulla nostra chat diretta Runtime su Telegram, e se volete continuare a seguire anche quello che facciamo, seguite anche Runtime Radio, la web radio geek, ovviamente sempre su Telegram, dove ovviamente questo è un canale broadcast, non è una chat, dove senza troppo disturbo informiamo sempre su quello che succede su Runtime Radio. Ma vi annuncio che questa sera torna Runtime by Night, quindi ore 22:30, mi raccomando, sempre qui su www.runtimeradio.it. A seguito di questa puntata andranno le tre puntate nuove, diciamo, che sono uscite negli ultimi due o tre giorni, che sono state già programmate, però per rimettere ordine comunque le ritrasmettiamo, e praticamente stiamo parlando di Snap, Teledipendenti e dall'ultimo episodio di Data Night, perché è uscito ieri. Tra l'altro c'è un problema con il bot, non capiamo bene che cosa sia successo, se sia un problema legato a Data Night o se è un problema del feed generale, però in realtà sembra che funzioni tutto e non capiamo perché la puntata di ieri di Data Night non è stata pubblicata, così come non capiamo perché ogni tanto non ci sono le anteprime, ma ci lavoreremo nei prossimi giorni su questo. E mentre vi annuncio anche importante che sta per tornare il secondo episodio di Tra le righe, la biblioteca parlante. Come sapete, sono stato con la testa impicciato in un progetto, poi dopo magari a metà puntata ve ne parlo. E poi anche una nuova puntata di Ho visto cose con Olivia e Marco, quindi insomma sarà anche questa settimana una diciamo un buon sette giorni di tanta tanta pubblicazione. Vi ricordo sempre di sostenere il progetto di Runtime Radio, che però insomma mi rendo conto in questi giorni è un po' trascurato, perché avevo la testa su un altro tipo di idea, un altro tipo di progetto. ma poi insomma cercheremo di fare anche il punto della situazione su questo e concludere questo progetto e tornare poi ovviamente a occuparsi di determinate cose. Sono stato invece al raduno di Progetto Nesce con Michela, molto bello, molto interessante. Considerate che in 5 giorni penso che a me mi hanno visto solo quando era il pranzo e la cena, quindi non è che posso, però mi è bastato insomma per farmi un'analisi generale di quello che è successo. Siamo stati in un posto benissimo, bellissimo, abbiamo mangiato benissimo, ma mi piacerebbe parlarne con Michela, magari ne parliamo appunto nei prossimi giorni tra sabato e domenica, magari facciamo una bella live insieme. Altre cose da dire? Beh ragazzi, insomma vedete che c'è sempre tanto tanto movimento, continua anche con discreto interesse e successo la trasmissione God Vibration di Alex Raccuglia, mio, di Luca Francesca, e adesso in questo momento c'ho un lapis, scusate, non me l'ero preparata questa cosa. Però insomma siamo veramente veramente molto contenti di questo. Detto questo, io direi che possiamo anche iniziare, perché appunto come ho detto è una puntata easy. Ah, ecco perché vi dovevo dire. Vi dovevo dire che la prossima settimana c'è questa puntata speciale appunto. Diciamo eventi storico-politici permettendo, ma sapete che noi poi seguiamo diciamo l'attualità in maniera estremamente relativa. Però ecco, diciamo che la prossima settimana faremo una puntata speciale dedicata a Sandro Pertini. Come avete visto nei giorni scorsi, se seguite la chat di Lettera in Time, io ho pubblicato una lettera, alcuni mi hanno chiesto che cos'è e che cosa non è, poi in realtà ho messo anche la foto, ma è una foto di quando era molto giovane, quindi è chiaro che magari non tutti l'hanno capito, però chi l'ha capito si è rimasto interessato e anche ha cominciato a mandarmi i contributi. Con Samuel abbiamo lavorato una cosa carina, ma insomma vabbè, la prossima settimana faremo una puntata dedicata a Sandro Pertini, anche perché con Michela andremo a visitare la casa di Sandro Pertini, che è proprio accanto a Fontana dei Trevi. L'ho vista in un video, insomma è rimasta al 2005 quando è morta la moglie di Sandro Pertini, che era l'ultima abitante di quella casa, e a quanto pare la casa è rimasta congelata così nel tempo, con gli oggetti, i libri, gli effetti personali, e quindi deve essere anche interessante vedere un po', entrare un po' anche nel privato di un personaggio per capirlo anche meglio dal punto di vista comportamentale, un personaggio che io ho amato tantissimo e penso tantissimi italiani lo hanno amato come me. Eccomi ragazzi, grazie, mi avete avvisato perché non mi ero accorto, anzi scusate un secondo, vi scrivo. Non so perché si era cambiata la password d'accesso, vabbè, comunque dai ragazzi ci sono. E vabbè, quindi vi siete persi tutta l'intro, vabbè, va recuperate quando esce in podcast. Poco male, non è che ho detto niente di trascendentale. Semplicemente vi stavo dicendo che usciranno praticamente i nuovi podcast, che a termine di questa trasmissione ci sarà Snap a seguire Teledipendente e poi l'ultima puntata di The Nightmare, così facciamo un po' un grab un po' di tutto quanto. E soprattutto vi ricordo che questa sera c'è Runtime by Night alle 22.30 su runtimeradio.it, runtimeradio.com. Nella settimana che entrerà poi arriverà un nuovo episodio di Ho Visto Cose, e soprattutto arriverà anche un nuovo episodio di Tra le Righe, che ho un po' messo da parte. Comunque questa canzone parlava dei ponti, e quindi io vi parlo dei ponti. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Christian, buongiorno a Debora, e soprattutto buongiorno, soprattutto no, perché non è carino, un saluto a Magoslo. Mi scuso perché giustamente mi dicevano in chat mentre io parlavo, continuavo già a parlare da non si sa quanto, Dice, ma siamo in ritardo? E io gli rispondevo, no, in chat, manco tanto, perché insomma alla fine è tutto ok, insomma. E invece non mi ero accorto che non era partito lo streaming e che non partiva. Continuava a darmi errore di accesso e mi sono accorto così ad Gazzum che per qualche ragione era cambiato il... i dati di accesso del... In realtà so perché è cambiato ed è un problema che si verifica quando è attivo un determinato una determinata estensione di Chrome, quindi poi dopo lo risolverò, insomma, perché io sono entrato per modificare e mettere la nuova copertina e niente, quello ha portato in automatico LastPass a inserire nuovi dati così a cazzo. No, nuovi dati a cazzo no, fortunatamente, altrimenti non sarei più potuto entrare, però insomma sono cose che non devono succedere. E vabbè, ci facevo sempre attenzione, siccome che le ultime volte l'avevo risolto questo problema, no, oggi proprio sono andato liscio, invece in realtà bisogna sempre fare molta molta molta attenzione. Comunque ragazzi, volevo dirvi, avete visto il povero Salvini? Il povero Salvini, ne parliamo di questa cosa. Ah, ecco, ovviamente la cosa che vi siete persi è che la prossima settimana, il prossimo venerdì mattina, sarà una puntata speciale dedicata a Sandro Pertini, con interventi, insomma, un po' un racconto, e soprattutto perché presto io e Michele andremo a vedere e a visitare la casa di Sandro Pertini, che si trova proprio accanto lì a Piazza Navona. Ma io queste cose, chi sta ascoltando il podcast, già l'ho ripetute, quindi è meglio non continuare. Volevo dire, avete visto Salvini, il povero Salvini? Allora, quando si dice che un governo... diciamo che questa nuova generazione politica, questa sorta di gruppo insomma che sta spopolando e che sta prendendo il potere in tantissimi paesi, no? questa destra un po' così reazionaria, ci rendiamo conto che questa nuova generazione politica non sta ovviamente soltanto ragionando su interessi economico-finanziari delle grandi lobby, perché sai, questo lo possiamo anche tenere in considerazione, no? Sono cose che nella politica sono sempre successe. Però fa specie perché oggi a fare questa cosa sono proprio quelle persone che fino a un po' di tempo fa si dichiaravano comunque destra sociale, destra popolare, e comunque quelli attenti al popolo, quelli che facevano le grandi dichiarazioni sulle accise, sulla defiscalizzazione, su tutta una serie di cose che poi alla fine ovviamente non sono successe, ma non è che non sono successe, perché chiaramente l'iter politico è complesso e poi ne abbiamo parlato tante volte quanto nella democrazia è anche fondamentale che questo iter politico sia complesso. Ma vediamo un po' che mi dicono in chat, perché magari sono in linea, ma mo sento le bestemmie. Sì, esatto. Quindi sono io che ci sono perfettamente in condizioni di intendere, di volere, credo, non è che sono proprio così sicuro di questo. E stavo dicendo, non è appunto per una questione di iter politici, la difficoltà, il dibattito, le opposizioni, l'oltranzismo, è proprio perché non ci hanno proprio manco provato, cioè non si sono manco proprio posti il problema. L'unica cosa che fa questo governo e in generale tutti questi governi di destra, che come abbiamo detto comunque sono collegati, comunque fanno parte di un'organizzazione a livello internazionale, e l'unica cosa che fanno è fare delle leggi di interesse che sono fondamentali ovviamente per i gruppi di interesse ai quali appartengono o che ovviamente in questo momento li spingono. Oggi cerchiamo di non parlare di Israele, per quanto ci sia da dire tantissimo su quello che è successo, ma ne abbiamo già parlato l'altra volta, lo sapevamo come sarebbe andato a finire, quindi non è che... Però nascondono, cioè fanno questo intercalare tra cose che riguardano interessi delle grandi lobby finanziarie, delle armi, delle banche e tutto quanto, nonostante tutto quello che hanno sempre detto, e dall'altra parte ci buttano in mezzo ogni tanto delle leggi ideologiche che servono per dare comunque quella botta a tutte quelle persone che l'hanno votate e che dicono, ma insomma, ma che stanno a fare questi? Niente educazione sessuale nelle scuole. Cazzo! ecco, vedi, oh, mo li riconosco, mannaggia la mignotta. E poi ovviamente ricominciano, fa i cazzi loro, e la gente si scoraggia, dice, ma che succede? E allora la legge sull'antisemitismo, ecco, così questi la smettono, andano in piazza, zozzoni, invece andano a lavorare. Capito? E insomma, questo è il lavoro di questi governi qui, dare una botta al cerchio e una alla botte, ovviamente cercando di dare un discorso dal punto di vista proprio del contentino ideologico, ideale a tutte le persone che comunque alla fine ne hanno votati. Avete visto insomma il grande Saverio Tommasi che è andato o come ogni anno va al raduno di Predappio, alla celebrazione del Duce, ed è stato bellissimo perché oltre ad andare lì a fare domande anche provocatorie, io devo dire comunque ci vuole non soltanto una convinzione in quello che si fa, ma ci vuole anche tanto coraggio, perché lui comunque ci pia schiaffoni, cioè nel senso, e va lì un po' provocatorio, ogni tanto gli danno una botta, ogni tanto non carcio, poi però dice vabbè, lui comunque cerca di fare il lavoro suo. Poi c'è stata una scena bellissima di questo qua che praticamente c'ha sta bandiera italiana con l'immagine del Duce, e però gli dicono guarda che è al contrario, cioè nel senso era il dietro, no? Quindi si leggeva al contrario. Ah, ok, allora questo lo rimette a posto, allora interviene Saverio Tommasi. No, non hai capito, era al contrario, che nel senso che lo devi mettere a testa in giù, a stronzo. È stato bellissimo. Comunque, vabbè, torniamo a noi. Quindi, alla fine, tutto quello che nella vita politica di questa gente è stato detto non ha nessun valore. Perché? Perché loro hanno costruito una società tale dove la gente è completamente disattenta, anche se però poi alla fine è vero che li votano lo stesso, perché oramai c'è una totale disabitudine, diseducazione all'ascolto, al senso di critica, però è anche vero che però a volte nei vari singoli specifici la gente si comincia un po' a farò del culo, perché tu non mi puoi di anni fa che il ponte sullo stretto di Messina non serve a un cazzo perché il sud non c'ha le ferrovie, che è vero, cioè non è che ha detto una menzogna, era vero, che quindi quei soldi dovevano essere dedicati, invece di spendere miliardi su stronzate, dovevano essere dedicati a le infrastrutture, al sostegno alle famiglie, a dare una mano a quel sud più in difficoltà, dove ci sono ovviamente delle situazioni. Io non ricordo quando sono stato a Matera, è vero, tantissimi anni fa, ma credo che la situazione non sia cambiata. Tu arrivi fino a Bari, da Bari in poi è il far west delle ferrovie, cioè nel senso non finisce l'Italia a Bari da un certo punto di vista. E quindi ovviamente Salvini tantissimi anni fa faceva questa bellissima campagna contro l'inutilità dello stretto di Messina, del ponte sullo stretto di Messina, e della necessità del sostegno a determinate infrastrutture e sostegni anche sociali ed economici. Oggi ovviamente lui dice completamente tutto il contrario, e nonostante tutti quanti i problemi che sta incontrando, perché ovviamente la Corte dei Conti non solo gli dice che sta roba è inutile, è uno sperpero inutile dei soldi, ma che soprattutto non c'è una copertura finanziaria per fare una roba del genere. E lui con quella faccia da torlo che oramai è un po' trita, ritrita, vabbè, l'abbiamo capito, fai sempre la stessa scena, quello che guarda dritto e dice io lo faccio lo stesso perché io comando, capito? Porco qua, porco là. E quindi praticamente gli fanno le domande, lui no, lui continua, noi continueremo a fare entro l'estate, entro l'estate di quale anno? Caro Salvini, che poi sei stato sputtanato, perché sui social lo fanno vedere sto video quando tu dicevi che lo stretto di Messina è una stronzata. Quindi ritorniamo un po' al discorso, perché stanno facendo queste cose? Stanno facendo queste cose per motivi ideologici e motivi di egomaniacalità, cioè proprio quel senso di onnipotenza che oramai è entrato in persone che hanno tanto potere avendo tanta poca cultura. Quindi quelle persone che non hanno una struttura, una preparazione etica, personale e culturale per poter affrontare le proprie responsabilità, e stanno lì e delirano in una maniera incredibile, e Salvini oramai si è incaponito su questa unica cosa, unico obiettivo della sua esistenza, che è quella di sto ponte, perché lui un giorno vorrà essere ricordato per quello che ha fatto il ponte di Messina, ossia l'ultima grande monumentale opera pubblica italiana. Le grandi opere pubbliche, ragazzi, le grandi opere pubbliche, così come ovviamente i centri di accoglienza in Albania, che sono costati, no, tra l'altro su questa cosa del ponte noi dobbiamo ricordare che qualora dovesse costare svariati miliardi di euro, 1 miliardo di euro è stato già speso, quindi alla fine l'interesse di fa girare soldi alle persone che gli interessava, a lui, a loro in generale, questo è già stato fatto, no? Quindi quel miliardo di euro che è stato speso semplicemente per fare tutte le valutazioni del caso, incredibile ragazzi, ma di che cazzo stavo a parlare? Vabbè, ma questi altro che il discorso a testa in giù, che insomma ventennale memoria, cioè qui si tratta veramente, la gente è talmente disabituata a capire proprio quello che sta succedendo, che se no li sarebbero andati a prendere con i forconi, ecco, insomma, diciamo così. Però comunque c'è anche ovviamente, insomma, questa cosa dei centri di accoglienza in Albania, che poi ne parleremo più approfonditamente, anche con persone, forse se ci riesco, anche con persone che comunque un po' hanno avuto, insomma, diciamo, non a che fare, ma insomma che hanno approfondito la tematica, la discussione, cose veramente totalmente inutili. Però vorrei cambiare completamente pagina, anche se in qualche maniera la facciamo ritornare a quelli che sono un po' i nostri interessi, le nostre discussioni di interesse. Intanto scusate, ma mi ero accorto che c'era un altro microfono aperto, quindi poteva entrare un feedback scomodo e sgradevole. E seguo sui social un avvocato penalista che non so se è penalista o è civilista, devo dire la verità, però è uno di quelli che ce la sa, e come tutti gli avvocati parla su tanti temi legati ovviamente alla giurisprudenza, ma lo fa ovviamente con la preparazione del caso, cioè non è che questo apprende, accende la telecamera come fanno tanti, anche professionisti, e dicono le prime cose che gli vengono a mente. Quindi ovviamente è molto molto preparato, e quindi questa cosa mi fa veramente, se vi capita o vi sia mai capitato, è quello, insomma, con l'accento lievissimamente napoletano, con la barbetta, che quando finisce ovviamente la sua disquisizione, dice: questo è il diritto penale, che stenso, non so se lo conoscete. Adesso non mi viene il nome, perché come al solito sapete che io non mi preparo, io sono un cialtrone che piace nel microfono e dice cose. Però è stato interessante, perché fra tantissime disquisizioni ovviamente su l'aver rilevato quante e tantissime leggi legate a anche insomma, diciamo, alla gestione sociale dello stato civile, dello stato penale, quanti ci siano ovviamente tanti problemi sulle proposte o sulle cose che sono un po' magari in fase di approvazione, così come la famosa legge sull'antisemitismo di Gasparri, che mi viene da ridere. Poi su sta cosa veramente ci faccio una puntata, perché mi viene da ridere Gasparri. Cioè, dove stava a parlare di gente che faceva, che cantava gli inni contro gli ebrei? Perché molti di voi non lo sanno, non li conoscete, cioè li conoscete, perché, ma chi è di Roma, alla fine sta gente gira da tantissimi anni, no? Da decenni, e quindi alla fine ti viene da ride quando insomma facevano le loro dichiarazioni, quando dicevano di non credere alla democrazia parlamentare, quando dicevano che gli ebrei erano un problema, e oggi sono diventati ovviamente, no? Quindi poi, però questa cosa della legge sull'antisemitismo mi fa ride, però ovviamente è una legge completamente sballata, che non ha la minima intenzione di proteggere, cioè di andare contro l'antisemitismo, che per il quale siamo già dotati di leggi più che abbondanti, insomma, sulla tematica, no? Ma ovviamente poi alla fine mischiando semitismo e sionismo, chiaramente l'intento è un altro, no? È quello di quello che vuole fare questo governo, è a piccoli tasselli, una botta di qua, una botta di là, e distrugge poi ovviamente il rapporto delle persone con l'opinione, no? Nei confronti delle proprie delle, insomma, della propria opinione, appunto, insomma, del poter esprimere determinate opinioni. Oggi, secondo quella cosa, se tu dici ah, governo Netanyahu è uno zozzone, ah, è reato, te ne vai in galera. Quindi, insomma, questa è la loro intenzione. Poi veramente ci ritorneremo su questi temi, perché noi stiamo parlando di un progetto che va avanti da 70 anni, ragazzi, forse anche da più. Cioè, siamo arrivati all'applicazione esecutiva di una cosa che non è che è nata oggi, no? Quindi, insomma, lo sapete. Però, comunque, fa ridere perché ha fatto un video dedicato al sistema giudiziario giapponese. Poi voi sapete che oggi, cioè che recentemente è stato eletto il nuovo primo ministro giapponese, il nuovo, insomma, capo del governo, che è una donna ultraconservatrice, ma questo a noi non ci stupisce. Il Giappone fondamentalmente ha sempre avuto una tendenza ad avere governi di destra, ma è proprio una cultura che è così, eh? Cioè, nel senso, è molti esaltano il Giappone, che figo il Giappone per i manga, i cosi, i cartoni animati, i videogiochi, e vanno in Giappone e dicono ah, guarda che figo, ah, l'ordine, guarda, non c'è carte per strada, puoi viaggiare tranquillo di notte, nessuno ti disturba, roba del genere, ma non si rendono conto che dietro c'è un sistema che culturalmente è un sistema che a me non piace fondamentalmente, forse anche un po' bacato, diciamo così, perlomeno secondo i nostri canoni occidentali. Poi è ovvio che secondo la loro cultura, però da quello che capisco, insomma, anche approfondendo, insomma, su letture, blog anche relativi ovviamente al mondo asiatico, insomma, alla fine tanto normale sto Giappone non è, e lo sappiamo. Comunque loro hanno questo sistema giudiziario che è molto forte, no? Che poi è un po' quella che è l'immagine di questa nuova tendenza politica, anche se in Giappone è così già da tempo, che è quello di vedere la democrazia come un qualcosa dove uno può alzarsi e dire che schifo quelli che andavano a Auschwitz a fare le gite perché erano solo per essere antifascisti. E beh, tu gli dici guarda che stai a dire, no, io ho il diritto di dire. Quindi la democrazia per loro è alzarsi in piedi e dire la loro stronzate, però poi se lo fai tu ovviamente loro fanno le leggi in maniera che tu poi non lo possa dire. Però comunque come funziona il sistema giudiziario giapponese? Funziona secondo la loro logica, è quella dell'ordine e della velocità, cioè nel senso comunque di tenere tutto all'interno di un contesto iperorganizzato, che è il loro presupposto. Poi se questo è ovviamente un abominio dal punto di vista della violazione dei diritti umani, o se c'è ovviamente tutta una distorsione della visione giudiziaria rispetto magari a come la vediamo noi, questo a loro gli frega veramente poco. Fondamentalmente in Giappone non si arriva mai a processo. Se si arriva a processo, si arriva soltanto quando i PM hanno la matematica certezza di poter vincere il processo e quindi di enfatizzare, diciamo, con uno show quella che ovviamente è la loro posizione, il loro potere. In generale quello che loro tendono a fare è non arrivare mai a processo, e il PM, quindi il giudice anche per le indagini preliminari, ha un potere enorme, può dichiarare se c'è bisogno o non c'è bisogno di un processo per un imputato che viene ovviamente accusato di un crimine, qualsiasi esso sia. Ma questa cosa ovviamente è un po' particolare perché in Giappone la polizia può tenere segregato un accusato per ben 27 giorni. Cioè una persona può essere tenuta dentro una stanza per 27 giorni, dove durante questi 27 giorni viene sottoposto a interrogatori anche violenti, vessatori, cioè nel senso comunque pesanti, e dopo 27 giorni, ma anche meno, di interrogatori pesanti che ti fanno crollare anche dal punto di vista psicologico, isolato dal resto del mondo, senza possibilità di avere un contatto, un conforto, niente, praticamente il 90%, se non il 95% degli accusati crolla e viene ovviamente mandato in carcere sulla base di una dichiarazione spontanea, cioè nel senso sulla propria dichiarazione, insomma, quello che viene rilasciato ovviamente e sottoscritto dal... Quindi è chiaro che noi capiamo che l'intenzione è proprio quella di tenere il sistema al di fuori di un qualsiasi tipo di dibattimento, cioè nel senso non ci deve essere, cioè io penso, ma poi chi fa l'avvocato in Giappone, che cazzo fa, se muore dei pizzichi, perché stiamo parlando veramente di un sistema abominevole, no? Cioè nel senso, mo, al di là di tutto quello che si può pensare sul Giappone anche dal punto di vista ideale, ideologico, ovviamente qui stiamo parlando di un qualcosa che va anche al di là, no, dei diritti umani, no? Ma noi sappiamo che il Giappone non è neanche nuovo a questo, no? Cioè, nel senso, noi storicamente siamo concentrati su quello che hanno fatto i nazisti, ma i giapponesi nella seconda guerra mondiale hanno fatto molto di peggio dei nazisti. Però oggi, dato che sono stati normalizzati, dato che sono i nostri amici giapponesi, sono gli alleati numero uno degli Stati Uniti d'America, che seguono come un cagnolino ovviamente gli Stati Uniti d'America, dopo essersi prese un par di bombe nucleari, e soltanto quello dovrebbe bastare per, insomma, per dire ok, abbiamo perso la guerra, ok, pace, ok, tutto quanto, però levatevi pure un po' dal cazzo, no? Cioè nel senso, e infatti il Giappone è l'elemento di rottura all'interno della nuova coalizione economico-finanziario-politica che si sta creando in Asia tra Russia, India e Cina, ovviamente. Perché? Perché è l'elemento di rottura, è la testa di ponte, è la quinta colonna all'interno di un mondo che ovviamente vede i propri interessi altrove, dove non si sente rappresentato ovviamente da quello che stanno facendo gli Stati Uniti. Ecco perché in questi tentativi di riforma giudiziaria che stanno facendo tutti questi governi reazionari e di destra in giro per l'Europa, ma non soltanto. Perché? Perché ovviamente questi modelli così autoritari in realtà risolvono il problema e vanno in contrapposizione a quello che è il concetto sia del diritto umano che del diritto costituzionale, che ovviamente anche del diritto giudiziario, che però si associa ancora di più alla disabitudine culturale delle persone a concepire la democrazia così come la concepivamo fino a 30 anni fa. Ossia, la democrazia non è una persona che vince le elezioni perché c'ha più voti e decide per tutti, ma la democrazia è una persona che vince le elezioni perché c'ha più voti di tutti ed insieme di concerto a tutti quanti cerca di portare un indirizzo secondo la sua visione. Ok? Perché qui la visione oggi è: io faccio come dico io e non mi dovete romper cazzo. E ovviamente avere delle leggi che la Costituzione ha fatto del tutto per evitare in qualche maniera, dove ci sono dei premi di maggioranza, c'è la possibilità che un determinato partito o coalizione abbia la maggioranza assoluta all'interno di una discussione parlamentare, oggi purtroppo è quello che succede. Oggi noi abbiamo magari dei governi che hanno delle maggioranze come seggi parlamentari che gli permettono di fare quello che cazzo gli pare, perché tanto A, le opposizioni non pervenute, e B, perché comunque hanno i numeri, se non manca qualcuno perché si è andato dall'armicromista, là, come cazzo si chiama, o se sono andati a fare la pedicure. Quindi ecco, insomma, questa cosa del mondo giapponese ritorna un po' anche a bomba su quello che poi è il tentativo di imbavaglio di quello che è il dibattimento sia politico che dal punto di vista giudiziario, anche in Europa, in Italia, ma non soltanto. Chua. Chua, chua. E vabbè, questi erano gli America con Sister Golden. Ragazzi, andiamo in chiusura. Oggi è stata una puntata più easy, più tranquilla, soprattutto la prima parte non l'avete ascoltata, ma poi comunque recupererete, io lo so che recupererete, c'è qualcosa dentro, inside me, che mi dice che recupererete. Comunque, detto questo, volevo anche dirvi che voglio prima di tutto ringraziare tutte quelle persone che nell'arco di 2 giorni hanno mandato tantissime donazioni per quanto riguarda il progetto The Safe Place, ma adesso gli cambio nome a sto cazzo di gioco, The Safe Place Chronicles, perché come qualcuno sa io ho aperto su GoFundMe, quindi GoFundMe.com, una campagna per sostenere il progetto appunto del mio gioco di ruolo che stavo sviluppando, perché è arrivato al punto in cui il gioco era arrivato alla 1.3.2, dove il gioco era virtualmente completo per come lo consideravo io, cioè nel senso, ok, è stabile, funziona, ci sono delle cose dentro, quelle cose che stanno dentro funzionano, in teoria poi arriva dall'inizio alla fine e quindi stiamo a pace. Però poi giustamente alcuni mi hanno fatto notare che dice sì, però questo poi alla fine più che un gioco di ruolo testuale è un gioco con tanti contenuti di testo un po' passivi che stanno lì, quindi è diciamo un po' statico come tipo di concetto e soprattutto è molto focalizzato poi sul discorso della sopravvivenza, trova risorse, arriva da A a B e arriva, grazie. E quindi ho aperto questa campagna per far diventare questo progetto, in realtà la roadmap già c'era, esisteva, però l'ho praticamente aperto questa raccolta fondi con un obiettivo di 500 euro, ma in realtà, cioè nel senso anche 300-350 euro erano più che sufficienti, per investirli e praticamente poter finire lo sviluppo di questo progetto. Perché ovviamente i soldi? Perché l'utilizzo di LLM, come sapete il gioco è completamente sviluppato tramite LLM con la mia direzione, la mia visione dal punto di vista sia tecnico che dal punto di vista del design, però ovviamente cioè, serve comunque delle risorse, perché chiaramente questi LLM piano piano cominciano ad avere dei costi e qui nello specifico si comprano dei credit che ti danno un numero di token e tu ovviamente con quei token devi cercare di portare a termine. Siamo arrivati già alla 1.7.0 ieri sera praticamente, e abbiamo costruito tutta l'infrastruttura che permette di avere delle main quest, delle sub quest, delle missioni, dei personaggi non giocanti, un sistema di dialoghi, il commercio e soprattutto il mondo comincia a diventare dinamico. Abbiamo popolato la mappa con dei punti chiave, quando ci sono le quest, le sub quest, ci sono dei marker nella mappa che ti dicono dove, come e quando raggiungere questi posti, c'è un diario delle missioni principali e delle missioni secondarie. Insomma, e adesso poi piano piano verranno popolate queste missioni e questi dialoghi e questi personaggi. E quindi se vi capita e ancora magari non l'avete fatto, per quelli che non l'hanno fatto, perché molti di voi l'hanno fatto e quindi vi ringrazio, andate, cercate la pagina appunto The Safe Place Chronicles, poi magari vi metto il link in qualche modo su GoFundMe. E date un contributo, perché così aiutate praticamente questo progetto a essere ultimato, che oramai è veramente all'80%, siamo arrivati proprio a un passo insomma dalla chiusura, così poi lo chiudiamo, lo testiamo e poi arrivederci e grazie, se siamo visti, è stato bello, è stato divertente. So che molti lo hanno anche giocato, lo trovate su The Safe Place, thesafeplace.runtimeradio.it. Che è la versione praticamente allo stato attuale che trovate, è la 1.6.0, quindi la versione un po' prima. In realtà avrebbe dovuto rimanere alla versione quella stabile precedente fino a che non avevo completato, però alcuni erano curiosi e ho detto ma sì, dai, buttavano la mischia, chi se ne frega, anzi anche meglio, perché magari se qualcuno oggi ci gioca dice oh guarda che c'è st'errore, oh guarda sta cosa non succede, oh guarda sto gioco si blocca così. Non dovrebbe succedere, ma potrebbe succedere, sapete insomma che il beta testing è fondamentale insomma da questo punto di vista. Quindi se avete voglia giocate al gioco e soprattutto contribuite magari con 5 euro, 10 euro se ce l'avete da buttare, e così insomma lo portiamo veramente a termine, che manca veramente veramente poco. Per il resto vi ricordo che adesso a seguire subito ci sarà Snap Architettura Imperfetta, Teledipendenti con la puntata dedicata a X Factor e l'ultimo episodio di Data Nightmare. Questa sera in diretta alle 22.30 su runtimeradio.it e runtimeradio.com ci sarà ovviamente il nuovo episodio di Runtime by Night. E poi se ci riesco con Michela magari ci facciamo una puntata o sabato e domenica dove parleremo anche di questo grande raduno di Progetto Nash, che è stata un'esperienza interessante, dove abbiamo conosciuto tante persone, dove Michela ha potuto mettere in azione anche quelle che sono le cose che ha imparato durante questo periodo, dove hanno fatto molto training, molti test, insomma devo dire molto interessante. Io ho prevalentemente dormito per 5 ore, ma hanno visto solo quando si mangiava, infatti quando mi vedevano, cioè quando io apparivo qualcuno diceva ah, allora si mangia, così è un po' il concetto, quindi ho interagito veramente poco, ma ne ho approfittato veramente, ragazzi, ho dormito come non mi ricordo, che forse anche questa cosa di The Safe Place un po' mi ha aiutato, no? Cioè nel senso dovevo staccare, dovevo spegnere un pochino da tutto e quindi sono veramente riposato, sono stato contento che è stata contenta Michela, perché poi no, appunto magari o sabato mattina o domani mattina o domenica mattina magari ne parliamo, ok? Grazie a tutti per essere stati qui e sostenete il progetto, ragazzi, sostenetelo, cacciate sti sordi, così lo finiamo il gioco, e poi tutti quelli che contribuiscono sappiate che saranno nei credits e avranno degli eventi speciali all'interno del gioco. Ciao a tutti e buon inizio di fine settimana, come sempre. Sorriso, è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio, il grande reset.